se il ladro è trovato mentre sta facendo una breccia nel muro ed è colpito a morte, non ci sarà per lui vendetta di sangue. Se si era alzato su di lui, ci sarà per lui la vendetta di sangue. Il ladro dovrà pagare, e se non ha di che pagare, lo si venderà per il suo furto. Se si troverà in sua mano il furto sia di un bue che di un asino o di un agnello ancora vivi, pagherà il doppio. Se uno fa pascolare in un campo o in una vigna e manda il suo bestiame a pascolare in un campo altrui, pagherà con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se esce del fuoco da cespugli spinosi e sono bruciati covoni o spighe o campo, chi ha procurato l'incendio deve pagare ciò che è stato bruciato. Se uno dà al suo prossimo denaro o oggetti da custodire e sono rubati dalla casa di quel tale, se si trova il ladro pagherà il doppio. Se non si trova il ladro, il padrone della casa si avvicinerà a Dio, attestando che non ha messo la sua mano sui beni del suo prossimo. Per qualsiasi reato di bue, di asino, di agnello, di vestito, di ogni cosa smarrita di cui si possa dire è quello, la causa delle due parti andrà fino a Dio. Quello che Dio avrà dichiarato reo dovrà pagare il doppio al suo prossimo. Se uno dà al suo prossimo un asino o un bue o un agnello o qualsiasi animale da custodire e questo muore o si rompe qualcosa o è rapito senza che nessuno veda, ci sarà un giuramento del Signore tra le due parti per dichiarare che il depositario non ha steso la sua mano sui beni del suo prossimo. Il padrone accetterà e l'altro non pagherà. Ma se la bestia è stata rubata presso di lui, pagherà al padrone. Se la bestia è stata sbranata, gli porterà la testimonianza della bestia sbranata. Non pagherà. Se uno richiede al suo prossimo un animale e questo si ferisce o muore e il suo padrone non è con lui, dovrà pagare. Se il suo padrone è con lui, non paga. Se era dato a nolo, gli viene dato il prezzo per il nolo. Se uno seduce una vergine che non sia fidanzata e dorme con lei, verserà il prezzo perché diventi sua moglie. Se il padre di lei rifiuta di dargliela, egli pagherà in denaro secondo il prezzo nuziale delle vergini. Non lascerai vivere la maga. Chiunque si accoppia con una bestia sarà messo a morte. Chi sacrifica agli dèi, oltre al solo Signore, sarà votato all'anatema. Non molesterai lo straniero, né l'opprimerai, perché foste stranieri nella terra d'Egitto. Non maltratterai una vedova né un orfano. Se lo maltratti e grida verso di me, ascolterò il suo grido. La mia ira si infiammerà e vi ucciderò di spada, e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro al mio popolo, al povero che è con te, non ti comporterai come un creditore, non gli imporrete interesse. Se prendi impegno il mantello del prossimo, glielo restituirai al tramonto del sole, perché quello è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle con il quale dormirà. Altrimenti, quando griderà a me, lo ascolterò, perché io sono misericordioso. Non bestemmierai Dio né maledirai un capo del tuo popolo. Non tarderai l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che cola dal tuo frantoio. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. Così farai del tuo bue e della tua pecora. sette giorni sarà con sua madre e all'ottavo giorno lo darai a me. Sarete per me uomini santi. Non mangerete carne sbranata alla campagna. La getterete al cane.